Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Guarda, andiamo nei playoff, andiamo! Usaccio, ma... Poi dopo ti racconto una cosa, è il numero, è avanti, 4 vittorie consecutive. Alla grande. Stiamo a volando. Volando. Stiamo volando. Sentite come fanno business nelle intercettazioni alcuni personaggi intorno al Catania Calcio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché c'è l'ennesimo scandalo che riguarda il pallone. Questa volta nel ciclone c'è il Catania, per l'appunto. Avete sentito questo procuratore Impellizzari come parlava con un altro di questa presunta cricca che truccavano partite, pagavano, secondo le indagini, i calciatori delle partite contro le squadre contro il Catania, in modo che il Catania non retrocedesse. Ne parleremo naturalmente, questo sarà uno degli argomenti di questa sera. Poi ci occuperemo della scuola. C'è stato un maxi emendamento che ha cercato di mediare tra governo e opposizioni sulla riforma della scuola. Non sembra abbia avuto successo, quindi quasi sicuramente giovedì si voterà la fiducia. E intanto ci sono dei sit-in di protesta, ci sono state e si annunciano nei prossimi giorni contro questa riforma. Ci occuperemo anche del sinodo prossimo venturo dei Vescovi. Ci sarà in Vaticano il ottobre prossimo, dall'inizio sino più o meno al 25 ottobre, perché riemerge un documento che in realtà è in lavorazione da alcuni mesi, in cui sembra che ci siano effettivamente alcune aperture nei confronti dei divorziati e poi risposati, delle coppie di fatto e anche dei gay. Capiremo dopo se effettivamente sono da interpretare in questo senso oppure in realtà se magari sono dei titoli un po' sparati. C'è anche in corso il Consiglio dei Ministri, vedremo più tardi se arriva a qualche conclusione, quali sono anche gli argomenti centrali di questa sera, e poi vi dicevo naturalmente anche Catania Calcio. Un sacco di argomenti, voi potete commentarli come sempre, lo sapete, o sulla pagina di Effetto Notte, pagina Facebook, oppure attraverso gli sms al 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. E ora la sintesi della giornata. Francia, caos a Calais, sciopero e blocchi e i migranti saltano sui tir per entrare in Gran Bretagna. Scuola e governo va verso la fiducia, tra le novità del maxi emendamento un esterno che valuterà i professori. Vaticano nel documento per il prossimo sinodo aperture su gay, unioni civili e divorziati. Mafia capitale, la Camera salva il sottosegretario all'agricoltura del nuovo centrodestra Castiglione coinvolto nello scandalo sul CARA di Mineo. Cinema, dopo Laura Antonelli scompare 83 anni Magali Noël, attrice e cantante francese, la celebre gradisca di Federico Fellini in Amarcorda. In un incidente aereo è morto il compositore James Horner, Oscar per Titanic. Calcio, il Catania nella bufera per alcune partite comprate, arrestati i vertici. Quindi da quello che sta succedendo in Francia col caos al porto di Calais sulla sponda francese della Manica, blocco e code sull'autostrada che porta allo scalo e al tunnel sotto la Manica, è accaduto a causa di uno sciopero dei marinai francesi di MyFerryLink, una società che assicura i collegamenti in traghetto verso Dover. I lavoratori in sciopero hanno organizzato diversi picchetti di protesta, hanno bloccato la possibilità di alcune navi di attraccare nelle prime ore della mattina, e ci sono stati inoltre momenti di tensione con alcuni immigrati irregolari che popolano i campi profughi nella periferia della cittadina di Calais, che approfittando dei rallentamenti del traffico hanno cercato di salire a bordo dei rimorchi di alcuni camion in transito verso la Gran Bretagna, così insomma come accade a Ventimiglia. Quindi non ci colleghiamo con la Francia, ma passiamo alla riforma della scuola. Il voto di fiducia è sempre più vicino, vi dicevo, è stato presentato in Commissione al Senato l'ultimo testo di mediazione, questo maxi emendamento, che però non ha convinto le opposizioni. Alla fine il governo blinda il disegno di legge sulla scuola, giovedì mattina porrà la fiducia sul maxi emendamento presentato dai relatori in commissione e il provvedimento verrà votato durante la stessa giornata nell'aula di Palazzo Madama. Un'accelerazione per permettere l'assunzione dei 100.000 precari a settembre, così il premier Matteo Renzi. Molto semplicemente, se il progetto andrà avanti ci saranno 100.000 assunzioni in più, un grande investimento sugli insegnanti, una riorganizzazione con il cosiddetto organico funzionale, se non andrà in porto ci sarà il regolare turnover, non 100.000 ma 20-25.000 assunzioni, quindi questa è la buona scuola. Il maxi emendamento contiene alcune delle modifiche delle opposizioni, ma Lega, SEL e Movimento 5 Stelle non ritirano gli emendamenti perché in sostanza si tratta di minuzie, dicono. Così la grillina Michela Montevecchi. Noi continueremo a chiedere lo stralcio del piano straordinario delle assunzioni in modo che si possa passare a un esame veloce e alle assunzioni a settembre 2015, perché è possibile, è solo una scelta politica del governo. Anche la minoranza Dem è contraria alla fiducia, per Roberto Speranza è una sconfitta per il Parlamento. I precari saranno assunti con le vecchie regole, la novità delle assunzioni a chiamata diretta sarà posticipata al prossimo anno e i 100.000 posti riguardano i precari in graduatoria e i vincitori dell'ultimo concorso del 2012. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi approfondiremo questo discorso, come vi dicevo, con una delle relatrici di questo, uno dei due relatori del maxi emendamento. Adesso spostiamoci sulle aperture della Chiesa in vista del sinodo del prossimo ottobre sulla famiglia, una serie di temi delicati. In Vaticano è stato pubblicato questo documento che servirà come preparatorio, come guida per l'Assemblea dei Vescovi. Emergerebbero, vi dicevo, delle linee un po' più morbide nei confronti di divorziati, di coppie di fatto, gay, e dopo cercheremo di andare un po' nel dettaglio. Siamo a questo punto sulla Grecia. I negoziati vanno avanti, le borse positive e c'è un nuovo ossigeno per le banche di Atene. Con l'occhio all'intesa che potrebbe arrivare dall'Eurogruppo di domani, l'attenzione politica sulla Grecia si sposta in patria, dove Alexis Tsipras si appresta ad affrontare una sfida potenzialmente più pericolosa dei negoziati europei: mantenere la propria eterogenea coalizione unita. Qualsiasi accordo sarà raggiunto coi creditori dovrà passare al vaglio degli organismi politici di Siriza, dove l'ala più a sinistra potrebbe decidere di votare contro in Parlamento, obbligando Tsipras a cercare i voti dell'opposizione di centrodestra. Le misure proposte da Atene, centrate più su nuove tasse che su riforme, potrebbero costituire un casus belli in grado di mandare KO il governo ellenico. Senza contare le barricate già opposte da alcune associazioni di categoria, come i ristoratori allarmati dall'aumento dell'IVA. Nelle ultime ore a Bruxelles si sta lavorando a livello tecnico per preparare il terreno ai ministri finanziari dell'Eurozona. La Commissione europea ripete che le ultime proposte elleniche costituiscono una buona base in vista di ulteriori progressi, mentre la BCE ha concesso alle banche greche nuovo ossigeno finanziario, autorizzando la banca centrale ad aumentare i crediti d'emergenza. Si tratta del terzo aumento in 3 giorni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora la politica italiana è in corso, il Consiglio dei Ministri, vi dicevo, che affronta il nodo della delega fiscale. Questa mattina Renzi è tornato sulla Grecia e sul ruolo dell'Europa, parlando anche di rilancio dell'economia con la riapertura da noi di numerosi cantieri che, secondo il Presidente del Consiglio, valgono un più 1% di prodotto interno lordo. Poi ci colleghiamo più tardi e capiamo come sta andando questo Consiglio dei Ministri. Intanto parliamo dell'inchiesta su Mafia Capitale. La Camera ha respinto le sfiduce al senatore Castiglione, quindi la maggioranza salva il sottosegretario all'agricoltura del nuovo centrodestra coinvolto nello scandalo sul CARA di Mineo. Intanto il sindaco di Roma Marino è tornato a parlare oggi per confermare che saranno spostati i camion bar dal Colosseo e dalle aree centrali. Il sindaco ha ribadito che non farà nessun passo indietro. Credo che stiamo andando avanti davvero in una direzione che fa ritrovare a Roma quell'orgoglio che a Roma aspetta. Andiamo avanti in questa direzione, siamo molto soddisfatti delle decisioni prese. E si è conclusa in Corte Costituzionale l'udienza per esaminare il blocco dei contratti pubblici varato per decreto nel 2010 per il triennio 2011-2013 e la proroga al 2014. La questione è stata sollevata dal Tribunale di Roma e di Ravenna dopo i ricorsi di vari sindacati del pubblico impiego. L'Avvocatura dello Stato ha calcolato in 35 miliardi di euro il costo di spese dello Stato che avrebbe una bocciatura di questo blocco, però per il momento ancora valuta la consulta, il da farsi, le decisioni saranno prese probabilmente nei prossimi giorni. E siamo alle polemiche sollevate dal ventilato incarico ad Adriano Sofri dato dal Ministero della Giustizia. Dopo qualche ora la vicenda si è chiusa con la rinuncia del diretto interessato. Dopo un coro di proteste, Adriano Sofri rinuncia all'incarico che gli era stato offerto dal guardasigilli Orlando. L'ex leader di Lotta Continua, condannato come mandante dell'omicidio calabresi, era stato inserito fra gli esperti incaricati di lavorare alla riforma del sistema penitenziario italiano, una scelta giudicata incomprensibile dalla vedova calabresi e subito finita al centro di polemiche di fronte alle quali Sofri, tornato in libertà nel 2012, ha deciso di fare un passo indietro. Ne ho abbastanza importanza delle fesserie e in particolare di quelle promozionali è stato il suo sfogo. Quella che gli era stata offerta non era una consulenza retribuita, poi precisato Orlando, spiegazioni che non convincono Donato Capece, segretario del SAP, il sindacato della polizia penitenziaria che aveva sollevato il caso. A mio avviso bene ha fatto il signor Sofri a dimettersi, però io chiedo al ministro comunque delle spiegazioni sulla proposta di questo nominativo. Forse è sfuggito al ministro il trascorso giudiziario di questo signore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo sulle alture in Val d'Aosta, dove è stato oggi il Presidente del Consiglio Renzi per inaugurare la maxi funivia del Monte Bianco. Ora bastano 19 minuti per salire fino a 3.466 metri di punta al Brunner, il tetto d'Europa. Un'opera da 138 milioni di euro, realizzata grazie all'impiego di 38 chilometri di funi e di 500 lavoratori che si sono avvicendati in quasi 4 anni di lavoro. Sono questi alcuni dei numeri della nuova funivia del Monte Bianco Skyway, inaugurata questa mattina. Due tratti che con una stazione intermedia collegano Courmayeur a Punta Elbronner a 3.462 metri di altitudine, per un dislivello complessivo di oltre 2.000 metri. Un traguardo importante che si inserisce nella storia delle funivie Monte Bianco, come spiega la Presidente della società omonima, Yvette Clavel. Tutta la storia delle funivie Monte Bianco sono state tracciate nel tempo da eventi importanti. Il primo grande progetto è stato quello del conte ed ingegnere Dino Lorato Tino, che ha realizzato un'opera alla fine degli anni 40 molto all'avanguardia. Sullo stesso principio nasce anche questo intervento. Presente all'inaugurazione anche il premier Matteo Renzi, che ha parlato della nuova funivia come di un'opera simbolo dell'eccellenza italiana e che sta all'Expo di Milano come la Tour Eiffel all'Esposizione Universale di Parigi. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore, Courmayeur. Poi una piccola notizia che arriva dal Pacifico meridionale: le isole Pitcairn, che sono il più piccolo paese al mondo, legalizzano le nozze gay. Gli abitanti, pensate, sono solo 48. Un portavoce del governo ha detto: si sta succedendo nel resto del mondo, perché non deve succedere anche qui? E adesso il cinema è morta a 83 anni Magali Noël, attrice e cantante francese, la celebre gradisca di Federico Fellini in Amarcord, considerato un'icona della sessualità da Fellini, che la volle in Amarcord, nella Dolce Vita, in Satiricon. E tra l'altro era considerata, visto ieri abbiamo ricordato Laura Antonelli, è stata cantante di cabaret per poi approdare al cinema negli anni 50, era apprezzata, dicevo, per la sua fisicità negli anni delle dive bellissime come Brigitte Bardot e Jean Moreau. Morto anche in un incidente aereo il compositore James Horner, Oscar per Titanic, lo sentite, il musicista, 61 anni, fu autore anche della colonna sonora di Alien, di Braveheart e di Beautiful Mind. Per chiudere il calcio, compravano partite, 7 arresti a Catania, tra loro il presidente Pulvirenti, ne parleremo di questo ennesimo scandalo del calcio, di partite, 5-6 partite truccate, presunte partite truccate con i vertici del Catania che sono stati arrestati, compreso appunto il presidente che ha arresti domiciliari. Ma per andare sul calcio pulito, allora respiriamo un po' di ossigeno con Martina Angelini, commentatrice di Eurosport ed esperta di calcio femminile, tornando sui mondiali femminili di calcio in Canada. Ciao Martina. Ciao Roberta, buonasera e grazie per il calcio pulito. Beh, insomma, possiamo dirlo in questo momento, almeno si riscatta in questo senso il calcio femminile. Senti, ieri ci hai dato alcuni risultati degli ottavi di finale, ma non erano tutti, no? No, mancavano. Allora, Norvegia e Inghilterra, con l'Inghilterra che ha eliminato 2-1 la Norvegia, un po' a sorpresa, perché le norvegesi sono una squadra che nel femminile hanno comunque un'ottima tradizione. E poi gli Stati Uniti hanno eliminato la Colombia. E questo era previsto? E questo sì, era previsto, anche se l'hanno fatto con un po' più di difficoltà del previsto. Stanotte alle 4 ci sarà l'ultimo ottavo di finale, quello fra il Giappone e l'Olanda, però i risultati di ieri già ci proiettano verso i quarti di finale, perché gli Stati Uniti affronteranno la Cina. Per chi conosce un po' il calcio femminile si ricorderà che nel mondiale appunto giocato negli Stati Uniti del 99, gli Stati Uniti hanno battuto in finale la Cina ai calci di rigore, quando ci fu il famoso spogliarello di Brandi Chastain, che fu l'ultima rigorista che si tolse la maglietta e rimase il reggiseno, che fu un po' la cartolina di quel mondiale. E quella finale ha un record, tra l'altro, che è il numero maggiore di spettatori in una partita, perché quella finale si giocò a Pasadena al Rose Bowl e ci furono 90.000 spettatori. Quindi quello è un record che ancora resiste. partire, e questo quarto di finale, appunto, che si giocherà venerdì fra Stati Uniti e Cina, insomma, è una rivincita di quella partita storica, quindi l'aspettiamo con ansia. Aspettiamo di risentirci allora, grazie Martina Angelini. Grazie a te, ciao, grazie. Ciao Martina. Prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi viaggia, voglio leggere qualche vostro messaggio tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Dice un ascoltatore: del consenso del Vaticano non mi interessa nulla, visto che poi parleremo del sinodo e delle aperture della Chiesa, pago le stesse tasse, pretendo gli stessi diritti, semplice, meno diritti, meno tasse. Poi Fulvio dice: Sofri ha dimostrato una grande dignità, del resto per scrivere sul Foglio, a proposito della rinuncia di Sofri a fare il consulente sulle carceri, la riforma delle carceri. E poi un altro messaggio: sentirete i relatori del maxi emendamento sulla scuola, ovviamente sentirete anche la voce dell'opposizione, così per fare giornalismo onesto o no? Ma in realtà non sempre sentiamo l'uno e l'altro, abbiamo sentito anche nei giorni scorsi l'opposizione, abbiamo sentito il Movimento 5 Stelle oppure i sindacalisti, questa sera sentiremo uno dei due relatori del maxi emendamento. C'è spazio comunque per tutti, a tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, adesso affronteremo man mano i vari argomenti che vi annunciavo all'inizio, dalla scuola al sinodo, allo scandalo del Catania, poi anche cercheremo di collegarci con una collega per capire se dal Consiglio dei Ministri sta emergendo qualcosa di concreto, di decisivo. Intanto però vi ricordo quali sono intanto i vostri canali per intervenire qui Effetto Notte in diretta, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure ci sono gli sms al 349-238-6666. Stasera vi lascio tema libero, nel senso che gli argomenti possono essere vari, può essere quello della scuola o, come coglieva l'occasione un ascoltatore, quello delle eventuali aperture della Chiesa. Intanto però vi ricordo quali sono tutte le altre notizie importanti. Francia, caos a Calais, scioperi e blocchi, e i migranti saltano sui tir per entrare in Gran Bretagna. Scuola e il governo va verso la fiducia. Tra le novità del maxi emendamento, un esterno che valuterà i professori. Vaticano, il documento è stato pubblicato oggi per il prossimo sinodo. Emergono delle aperture sulle coppie di fatto, sui divorziati e anche sui gay. Mafia capitale, la Camera salva il sottosegretario all'agricoltura del nuovo centrodestra Castiglione, coinvolto nello scandalo sul CARA di Mineo. Cinema, dopo Laura Antonelli scompare, 83 anni, Megali Noel, attrice e cantante francese, la celebre gradisca di Federico Fellini in Amarcord. E poi in un incidente aereo a 61 anni è morto il compositore James Horner, che fu Oscar per Titanic. Per il calcio, il Catania nella bufera per alcune partite comprate, arrestati i vertici. Dicevo dunque di questo documento preparatorio al sinodo sulla famiglia del prossimo ottobre, un documento che è stato pubblicato in Vaticano e che è l'Instrumentum Laboris, il documento che sarà appunto alla base di questo confronto, di questa assemblea a ottobre, che farà da guida ai nuovi lavori sinodali. Uno strumento elaborato dai vescovi con le risposte, attraverso le risposte, vi ricordate, c'è stato questo sondaggio tra i fedeli di tutto il mondo su un questionario voluto da Papa Francesco, e amplierà questo documento la discussione avvenuta già nell'ottobre scorso, se ricordate, nel 2014, al sinodo straordinario che Papa Francesco aveva indetto per preparare appunto l'assemblea ordinaria che si terrà invece dal 4 al 25 ottobre 2015 in Vaticano. La Chiesa quindi si prepara ad affrontare il dibattito decisivo sui temi della famiglia. Emergerebbero alcune aperture. Ne parliamo con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao Roberta. Allora, io farei sentire intanto due brevi passaggi del Papa nel corso degli ultimi mesi. Uno, quando disse quella cosa che fece pensare a un'apertura anche più grande, diciamo, sulle persone omosessuali, e poi un'altra sulle donne. Sentiamo. Deve distinguere il fatto di essere una persona gay del fatto di fare una lobby, perché le lobby tutte non sono buone. Quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Perché le donne si dia per scontato che devono guadagnare di meno degli uomini? No, lo stesso diritto. È una forma di maschilismo che sempre vuole dominare la donna. E facciamo la brutta figura che ha fatto Adamo quando Dio ha detto: ma perché hai mangiato la frutta? E lei me l'ha dato, e la colpa è della donna. Povera donna. Insomma, due considerazioni emblematiche di Papa Francesco, una appunto dicevamo sui gay, l'altra sulle donne. Carlo, quindi secondo te in questo sinodo, già ne avevamo parlato appunto un annetto fa di queste possibili aperture, effettivamente sembra muoversi verso un cambiamento della Chiesa? Ora guarda, quello che hai fatto sentire era quella di chi sono io per giudicare, forse una delle frasi più celebri. Sì, sull'aereo, durante un volo aereo tra l'altro. Volo aereo, sì, il primo viaggio importante, quello a Rio de Janeiro per la giornata dei giovani, stiamo parlando dell'estate 2014, quindi era proprio l'impatto più principale. Chi sono io per giudicare, l'altro disse: ha abolito il peccato, fu detto addirittura. Comunque sia, per quanto riguarda i gay, naturalmente il tema è questo. Anche oggi la conferenza stampa dove io ero, dove è stato presentato il documento, è stato ribadito per la Chiesa Cattolica, e questo il Papa lo ribadisce, naturalmente viene riportato un po' di meno perché è un fatto acclarato, il matrimonio è tra uomo e donna finalizzato alla procreazione. Questo non è che cambia, non cambierà perlomeno verosimilmente per un po' di tempo, per molto tempo, non so quanto, ma non ora. E cambia l'atteggiamento. Sicuramente. Chi sono io per giudicare significa che non si parte più da un atteggiamento che era quello consolidato nella Chiesa, cioè di una emarginazione nei fatti, anche tutti i movimenti ultratradizionalisti di laici che ronzano intorno alla Chiesa, dico ronzano perché a volte si autonominano loro i custodi come quelli in piazza, ora non dico che... Però, dopo le facciamo sentire uno di questi custodi di piazza. Questi autoproclamati difensori autentici della fede che cercano di mettere tutti all'indice, il Papa dice questo non più. E dentro il documento ci sono dei passaggi in cui riconoscono l'accoglienza. Accoglienza vuol dire tante cose, ma non riconoscimento delle coppie. Ecco, questo non c'è. Quindi un'apertura, ma un'apertura in senso lato del termine, non in senso giuridico. Senti, io ti farei sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori un intervento di un certo Chico Arguello, che è fondatore del Cammino Neocatecumenale, che è intervenuto nel Family Day che c'è stato a Roma sabato scorso a proposito del femminicidio, che è riconosciuto, ricordo, come delitto e giuridicamente a livello internazionale dall'ONU. Facciamo sentire come lo ha spiegato. Dicono che questa violenza di genere è a causa della dualità maschio-femmina. Bene, noi diciamo non è così. Questo uomo ha ucciso i bambini per un'altra ragione. Perché se questo uomo è un laico, è un secolarizzato ateo che ha lasciato di praticare, non va a messa, il suo essere persona, chi se lo dà? L'amore della moglie. La moglie le dice, come la opera di teatro, tu sei il mio marito. Tu sei, io ti faccio, io ti do l'essere mio marito. E lui, questo amore, essere amato della moglie, ma se la moglie lo abbandona e se va con un'altra donna, questo uomo può fare una scoperta inimmaginabile. De pronto, quella moglie l'ha tolto l'essere, non le ama più, l'essere amato, e sperimenta il non essere amato. Questo si chiama l'inferno, perché Dio è amore. Il primo moto che sente dentro, perché sente una morte tan profonda, che il primo moto è ucciderla. Capito, Carlo Marroni, insomma, dice praticamente... Capito, non lo so, perché non so cosa abbiano capito i 300-400 mila, non un milione, che erano presenti in Piazza San Giovanni, sì. Perché mi sembrava un po'... No, questo, stiamo parlando di un personaggio importante che ha fondato un movimento molto seguito, però non credo in base a questi discorsi, perché era un po' non lo so, io personalmente, lui l'ha buttata più sulla questione del genere, che è un'altra questione di battuta, cioè che si tende nella cultura laica, dicono alcuni, a eliminare la differenza di donna, che non sarebbero differenze sessuali ma antropologiche, e quindi vanno cancellate. Questo è quello che loro contesterebbero, però è una cosa molto complicata. Anche se questa cosa del genere è complicata e confusa, e forse non esiste neanche, tutto sommato. Esattamente. Che peraltro è affrontata anche nel documento, quello di oggi, è una cosa importante di cui il Papa stesso parla spesso, però è un tema molto complesso. E qui si tende a cercare di capire che la famiglia tradizionale viene attentata, in Italia in questo caso, che è l'unico, uno dei due o tre paesi in Europa dove non ha ancora una legislazione su questo argomento, qui stiamo proprio veramente indietro in tutti i sensi. perché questa è una questione importante in Italia, che sono tante le coppie di fatto anche omosessuali, quindi avrebbero diritto ad avere tutte le tutele possibili, ma al di là di questo la Chiesa dice noi non le riconosciamo, però al netto di questo, quindi giuridicamente, c'è una tendenza all'accoglienza. La questione rivoluzionaria di Papa Francesco qual è stata? Che di averla posta come tema, prima era totalmente tabù, questa è la cosa forte, al di là del, diciamo, di un fatto legislativo interno della Chiesa, che invece per i divorziati probabilmente ci sarà, per le coppie gay probabilmente no, direi di no quasi sicuramente, però il fatto di parlarne è stato questo l'aspetto rivoluzionario, su cui c'è stato un forte confronto, uno scontro tra tradizionalisti e innovatori, semplifichiamo naturalmente, e questo ha creato un dibattito straordinariamente ricco. Questo è il fatto importante, secondo me. Credo anch'io, Carlo Marroni. Poi al di là appunto di quelle che saranno le aperture effettive, vedremo poi a ottobre, ma ci sarà ancora modo di parlare, perché ultimamente mi sembra che le questioni della Chiesa siano sempre abbastanza in primo piano rispetto a una volta, proprio forse per questa apertura, per questa accoglienza, per questa voglia di comunicazione un po' più morbida di Bergoglio. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao Carlo. Ciao. Voi continuate con i vostri messaggi intanto al 349-238-6666 con gli sms, oppure con le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo Pietro che dice: i pastori della Chiesa neppure il Papa possono cambiare la dottrina, perché le parole di Gesù sono chiare sul matrimonio, sul divorzio. Non mi sembra che siano così chiare, Pietro, se mi citi un passaggio proprio così definitivo. Comunque continuate con le vostre riflessioni, ci prendiamo una pausa di ricreazione e poi ci sono gli altri temi. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, con me, i vostri messaggi, i vostri commenti sulle notizie del giorno. Oggi vi dicevo, ho lasciato tema libero perché a volte, diciamo, non c'è una cosa così preponderante, anche se naturalmente c'è la scuola, di scuola abbiamo parlato tante volte, avete espresso anche le vostre opinioni diverse volte sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche con gli sms al 349-238-6666. Mi pare che in questo momento stia iniziando la conferenza stampa, ho già in corso da un po', sul Consiglio dei Ministri, vediamo che cosa hanno concluso. Sentiamo Renzi. Avete visto, c'è stato uno sforzo anche con il maxi emendamento per cercare di farsi carico di alcune posizioni diverse. Se ci sarà le condizioni di un dibattito parlamentare tranquillo, noi volentieri eviteremo il ricorso al voto di fiducia. Quello che è importante è che sia chiaro che se va in porto la riforma ci sono 100.000 assunzioni, più soldi per i professori, più investimento sul futuro didattico della scuola. Se non va in porto, per carità di Dio, naturalmente grande rispetto per tutti, però le assunzioni saranno le 20-25.000 previste dal turnover e la situazione resterà quella che è, e quindi credo che l'alternativa debba essere chiara per chi domani in Parlamento, senatori, domani al Senato, dovrà decidere come comportarsi, se scegliere la strada dell'ostruzionismo, come diceva oggi il capogruppo di Forza Italia di scuola, in sede Consiglio dei Ministri, conferenza dei capigruppo, dove diceva io voglio fare, noi abbiamo fatto l'ostruzionismo, siamo per l'ostruzionismo, o chi invece scommetterà sul futuro dell'educazione di questo paese. Prego. Domani l'Europa e il tema dei migranti rimane centrale. Beh, allora, di questo di scuola parleremo tra pochissimo con la senatrice Francesca Puglisi del PD, che è una dei due relatori del maxi emendamento che ha cercato, diciamo, di inserire una mediazione tra governo e opposizione. Ne parleremo tra pochi istanti, però c'è la collega Livia Zancaner che invece ci dice in sintesi, ciao Livia, che cosa è stato, di cosa è stato discusso e cosa hanno deciso il Consiglio dei Ministri. Ciao Livia. Sì, buonasera Roberta. Allora, bisogna dire che il Consiglio dei Ministri è finito poco dopo le 9, quindi la conferenza sta stampa è iniziata da poco, è durato quasi 2 ore il Consiglio dei Ministri e avrebbe dovuto esaminare i decreti legislativi per attuare la delega fiscale. La cui scadenza è prevista per il prossimo 27 giugno, quindi per sabato. Allora, Renzi ha detto che l'esame dei decreti fiscali è iniziato, però i testi non erano perfettamente limati, quindi abbiamo preferito rinviare l'approvazione definitiva a venerdì, quando saranno effettivamente approvati. Renzi ha però specificato che non c'è più la questione del 3%, cioè quella norma salva Berlusconi che aveva creato molte polemiche, e non vi sarà la riforma del catasto perché nelle more dell'approvazione della local tax ogni tipo di intervento, ha detto Renzi, potrebbe sembrare un aumento delle tasse. Un salasso, quindi, si dice, quindi meglio in questo momento anche di governo, si diceva, non con consensi altissimi, evitarlo. Sì, quindi prima la local tax e poi la riforma del catasto, che appunto sarà rinviata. Un'altra cosa, allora, Renzi ha detto che vi sarà un decreto legge sulla velocità, riguardo alla velocità della giustizia economica, soprattutto per disincagliare i crediti bloccati nel mondo del credito, quindi banche, imprese. Ha detto anche se questa cosa fosse stata approvata 5 anni fa sarebbe stato meglio, ma ormai quel che è fatto è fatto. Ha passato quindi la parola a Padoan, che poi ha spiegato meglio, ha detto la necessità di rimettere in moto il mercato del credito, che risente di crediti non performanti che trattengono le risorse appunto presso le banche, quindi poi non finanziano le piccole e medie imprese. E poi una cosa che ha detto Renzi all'inizio della conferenza stampa è che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto alle autorità competenti un parere sulla vicenda del governatore della Campania in merito alla legge Severino. Renzi ha detto: è nostro intendimento procedere alla sospensione come previsto appunto dalla legge Severino. Grazie Olivia Zaccaner. Ciao Olivia. Ciao, buonasera. In televisione non fanno altro che dire che noi docenti siamo degli incompetenti e io sono stufa di sentirvelo dire. Sono stufa. Non è vero che siamo degli incompetenti. Sappiamo bene cosa contiene DDL. Lo sappiamo bene. E sappiamo bene che ciò che Renzi sta mettendo in atto è un ricatto. Siamo stufi dei ricatti del governo. Siamo stufi. Vogliamo semplicemente il ritiro del DDL. Vogliono semplicemente il ritiro del DDL, sono alcuni dei professori, non pochi insomma, che protestano da tempo contro la riforma della scuola, il disegno di legge della buona scuola. Dopo 16 mesi di lavoro questo disegno di legge è arrivato in Senato, è vicino all'approvazione. Dallo scorso marzo però è cresciuta la protesta dei docenti italiani, ma anche all'interno, diciamo, del Parlamento, tra governo e opposizione c'è alta tensione, c'è stata da tempo e continua. C'è stato anche all'interno del PD, tra la maggioranza del PD e la minoranza del PD. Avete sentito prima Renzi che diceva: chi vorrà fare ostruzionismo lo faccia, però qui si tratta di giocare un po' sulle assunzioni. Questa mattina c'è stato un tentativo di mediazione, un maxi emendamento, un testo di sintesi che accoglie alcune modifiche dei gruppi parlamentari di opposizione, ma questo tentativo in extremis di trovare un accordo in commissione istruzione sulla riscrittura della riforma della scuola pare sia fallito. Il testo dei relatori ha scontentato le opposizioni, Lega e Movimento 5 Stelle, quindi non hanno ritirato gli oltre 800 emendamenti, queste richieste di modifiche. I due relatori sono Francesca Puglisi del PD e Franco Conte di API, di Area Popolare. C'è in collegamento, la ringrazio che ha aspettato, senatrice Puglisi, buonasera. Buonasera a voi. Ho approfittato della conferenza stampa per farne sentire un pezzettino. Allora, senatrice Puglisi, anche per me. Bene. Quindi questo maxi emendamento dovrebbe appunto, aveva lo scopo di cercare di avvicinare un po' le posizioni in contrasto, non è stato così. Quindi si va alla fiducia, giovedì si vota la fiducia? Lo ha detto con chiarezza il presidente Renzi nella sua conferenza stampa. Noi speriamo di non dover ricorrere, di non dover indurre il governo a ricorrere al voto di fiducia, ma credo che se non troveremo collaborazione in aula, a questo punto è l'unica condizione per poter assumere i 100.000 insegnanti che da troppi anni vivono in condizioni di precarietà, ma soprattutto a noi servono, alla scuola servono questi insegnanti per permettere agli studenti di godere di quella continuità didattica che serve loro per arrivare ad avere una buona scuola. È una questione cruciale. Ci avevano chiesto di separare le assunzioni dal resto del DDL, ma non è così, perché le 100.000 assunzioni servono per dare le risposte agli studenti che hanno per esempio bisogni educativi speciali, servono per accompagnare i ragazzi nelle attività di alternanza scuola-lavoro, servono a potenziare l'offerta formativa offrendo inglese, educazione motoria e musica sin dalla scuola primaria, storia dell'arte, esperienze di cittadinanza attiva nelle scuole secondarie di secondo grado. Quindi è un disegno di legge complessivo che rilancia l'autonomia scolastica e mette in cattedra 100.000 insegnanti perché possano davvero rispondere ai bisogni degli studenti. Senatrice Pugliesi, mi sembrava, a proposito delle assunzioni, oltre a queste 100.000 assunzioni che però abbiamo sentito Renzi dice o passa il disegno di legge o queste assunzioni ci saranno, mi sembra che si parli anche degli idonei al concorso 2012, ci spiega lei per chi è di fuori dalla scuola? Ma è una questione un po' complicata. Dunque, gli idonei nel 2012 c'è stato un concorso indetto dall'allora ministro Profumo, resta l'ultima tranche dei vincitori da assumere in ruolo. I primi assunti, diciamo i 48.000 che entreranno in ruolo all'apertura dell'anno scolastico, saranno proprio secondo il principio del 50-50, 50% vincitori e idonei del concorso 2012 e il restante 50% coloro che stanno nelle graduatorie ad esaurimento. Immediatamente dopo entreranno in classe, quindi non è vero che ne assumeremo solo 48.000, ma assumeremo tutti 100.000 nel prossimo anno scolastico, saranno quelli che potenzieranno l'offerta formativa delle scuole, quindi andremo finalmente ad esaurire le graduatorie ad esaurimento. Questo è il meccanismo. Gli idonei entreranno prima semplicemente per un meccanismo di scorrimento dei primi assunti, ma nulla toglie agli insegnanti delle graduatorie ad esaurimento che comunque entreranno in ruolo già il prossimo anno. Senatrice Puglisi, sappiamo che uno dei maggiori elementi del contendere è questo del preside super manager che dovrebbe scegliere insegnanti, che dovrebbe decidere anche di assegnare loro dei premi o meno. Adesso vedevo che una delle novità del maxi emendamento che ha presentato lei insieme al senatore Conte è un membro esterno per valutare i professori? Dunque, pensiamo di aver migliorato nella nostra proposta l'equilibrio del comitato che fisserà i criteri per distribuire quei 200 milioni di euro che diventeranno la premialità che i dirigenti scolastici daranno agli insegnanti. Nel comitato staranno tre docenti, di cui due scelti dal collegio dei docenti, restano il genitore e lo studente e si aggiunge un membro esterno nominato dall'ufficio scolastico regionale che può essere o un docente o un dirigente scolastico o un dirigente tecnico non appartenente all'istituto di cui si effettua appunto la valutazione. Senatrice Pugliesi, proprio l'ultima domanda, guardavo con curiosità anche sempre nel maxi emendamento un concorsone entro il 31 dicembre? Sì, è un concorso per 60.000 posti, un numero davvero cospicuo. Voglio ricordare, l'ultimo concorso è stato per 12.000 posti, questo è per 60.000 ed è per insegnanti abilitati che ad oggi lavorano nelle graduatorie d'istituto. Quindi con questo piano straordinario di assunzioni che è fatto dai 100.000 più i 60.000 del concorso, davvero daremo le risposte che servono alla scuola italiana per aiutare gli studenti nel recupero scolastico, combattere la dispersione, aiutare i ragazzi ad avere maggiori chance di occupabilità e grazie anche alle attività di alternanza scuola-lavoro. È un grande investimento che dopo anni di tagli il governo Renzi fa nella scuola e credo che sia appunto una grande occasione che non dobbiamo sciupare. È per questo che abbiamo deciso qui al Senato di ingranare la quinta e premere sull'acceleratore, perché i nostri ragazzi non possono aspettare. Aspettiamo allora giovedì. Grazie senatrice Puglisi. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie a lei, grazie, buona serata. Buona serata. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E ai messaggi al 349-238-6666, oltre alla pagina Facebook di Effetto Notte, arriva il messaggio di Angela che dice: detto da una chiesa cattolica a proposito delle aperture su gay, coppie di fatto, divorziati, donne, dice: dove solo gli uomini possono dire messa e dare sacramenti, eccetera, che le donne e uomini hanno uguali diritti retributivi e no, il maschilismo fa ridere, detto dalla chiesa. La chiesa cattolica è fortemente maschilista, guardare prima in casa propria. Questo è il monito di Angela. Ma adesso vi ricordo le altre notizie. Con la scuola abbiamo appena parlato, il governo va verso la fiducia che si dovrebbe votare al Senato giovedì. Tra le novità di questo maxi emendamento, un esterno che valuterà i professori. Avete appena sentito uno dei relatori del maxi emendamento, Francesca Puglisi. Francia, caos a Calais, scioperi e blocchi, i migranti saltano sui tir per entrare in Gran Bretagna. In Vaticano, nel documento per il prossimo sinodo, aperture su gay, unioni civili e divorziati. Mafia capitale, la Camera salva il sottosegretario all'agricoltura Castiglione, del nuovo centrodestra, coinvolto nello scandalo sul CARA di Mineo. Cinema, dopo Laura Antonelli scompare 83 anni Magali Noël, attrice e cantante francese, la celebre Gradisca di Federico Fellini in Amarcorde. Poi in un incidente aereo è morto a 61 anni il compositore James Horner, Oscar per Titanic. Per il calcio, nuovo scandalo riguarda il Catania per alcune presunte partite comprate. Europa 24 notte. È decollato la scorsa notte dallo spaceport di Kourou nel Guyana francese il secondo satellite ESA della missione Sentinel, l'occhio europeo per monitorare l'ambiente del pianeta Terra. Un esempio, ha detto Volker Liebig, direttore dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA, di ciò che l'Europa può ottenere quando unisce le proprie forze. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, allumage e décollage VV05. Ha illuminato la notte disegnando un arco tra le nuvole prima di scomparire rapidamente alla vista. Alle 3.51 ora italiana Sentinel 2 è decollato dalla base di Kourou nella Guyana francese. Il lancio è avvenuto a bordo di un lanciatore Vega e si è concluso 55 minuti dopo, quando la sentinella spaziale è stata lasciata in orbita a circa 800 km di altezza. Sentinel 2 is a second satellite of European Commission's flagship program Copernicus, dedicated to sustainable development through global Earth monitoring for environment and security. Sentinel 2, spiega Stefan Israel, presidente e direttore generale dell'Ariane Space, è il secondo dei satelliti del programma europeo Copernicus, varato dalla Commissione europea e dall'Agenzia spaziale europea. È il grande occhio europeo, la sentinella che dallo spazio scruta lo stato di salute della Terra in tempo reale. Per i prossimi 7 anni, spiega ancora Stefan Israel, Sentinel 2 osserverà attraverso i suoi occhi high tech la superficie del pianeta in 13 diverse bande spettrali, pacchetti di lunghezze d'onda che vanno dal visibile fino al vicino infrarosso, con una precisione senza precedenti. Manufactured by Airbus Defence and Space, Sentinel 2A will supply multispectral high-resolution optical imagery of vegetation, soil and water cover inland waterways and coastal areas. It will also deliver information for emergency services. I dati raccolti saranno utili per vari settori, dalla gestione delle risorse agricole e forestali al monitoraggio dell'inquinamento di fiumi, laghi e coste ai cambiamenti climatici, informazioni che potranno essere utili in molte situazioni di emergenza come le eruzioni vulcaniche, le inondazioni, le frane, contribuendo ad una migliore gestione degli interventi. La costruzione del satellite, che il prossimo anno sarà affiancato dal suo gemello Sentinel-2B, è opera di una cordata di 60 industrie europee, tra cui una decina di italiane, mentre il lanciatore Vega è stato realizzato da Avio negli stabilimenti di Colleferro in provincia di Roma. Il costo totale dei due satelliti è di 340 milioni di euro finanziati nell'ambito di Copernicus, che ha stanziato complessivamente 2,3 miliardi di euro. Il programma infatti non finisce qui, ma si prevede nel corso dei prossimi anni il lancio di almeno una decina di satelliti, spiega Volker Liebeg, direttore dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA, secondo il quale questi satelliti sono davvero un esempio di ciò che l'Europa può ottenere quando unisce le proprie forze. You see, this is really a European cooperation, and without this cooperation, this type of systems would never see the light. Copernicus is an example what Europe can achieve if we join forces. Una cooperazione europea concreta e tangibile, dunque, almeno sul piano scientifico, esiste. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus.